in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Grazie a chi sta già mandando dei messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, e rispondo a Pierluigi che mi chiede quando vado in ferie. Sarò in ferie, anche se resterò a Milano perché adoro Milano d'agosto, durante la settimana centrale di agosto, quella proprio di Ferragosto. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, che sceglie di titolare su alcuni dati che sono stati resi noti ieri sulla cosiddetta voluntary disclosure, cioè letteralmente volontariamente svelare, questo dovremmo tradurre in italiano, volontario svelamento, forse è meglio la complicata espressione, complicata se non altro da pronunciare, voluntary disclosure, e significa semplicemente appunto che uno confessa, ammette e quindi ha dei benefici fiscali per averlo fatto, di avere dei capitali all'estero e li fa rientrare. Questo rientro però sta avvenendo a rilento, 6.500 domande su 27.000 casi. Un accenno anche a quello che ieri ha detto Padoan alla presentazione di un libro che è tornato sulla questione del taglio delle tasse. In Italia abbiamo una pressione fiscale molto alta, però abbiamo anche un'evasione fiscale molto alta, è un antichissimo problema che sembra quasi irrisolvibile, però per quanto appunto se proseguisse la lotta all'evasione fiscale sicuramente potrebbe anche profilarsi un taglio alle tasse. Vi segnalo anche, e poi la trovate a pagina 2, l'intervista di Davide Colombo al presidente dell'INPS Tito Boeri. Nelle scorse settimane si è ricominciato a parlare dell'età pensionabile e soprattutto dell'innalzamento dell'età pensionabile, e torna a spiegare Tito Boeri in questa intervista che costa 141 miliardi, un dato calcolato fino al 2035, lo stop a 67 anni. Come sempre di domenica da ormai 14 settimane trovate nelle pagine dei commenti, da una parte Il viaggio nell'anima dell'Europa di Carlo Ossola, che questa settimana è a Belém, e l'incontro che si alterna una settimana è fatto da Paolo Bricco e la settimana successiva da altri giornalisti del Sole 24 Ore che incontrano e hanno lo spazio, è una cosa un po' eccezionale per la domenica, hanno lo spazio di una pagina intera per raccontare questi incontri con personaggi della società, della cultura, dell'economia italiana. Questa settimana Paolo Bricco insieme a Edoardo De Biasi, che è vice direttore vicario del Sole 24 Ore, raccontano Piero Maranghi, figlio naturalmente di Vincenzo Maranghi, che fu l'allievo di Piero Cuccia, di Enrico Cuccia in Mediobanca, e poi ne fu anche il successore, mancato 10 anni fa, e Piero Maranghi lo ricorda: io, mio padre e il paese che siamo diventati. Una bellissima, bellissima pagina, la trovate a pagina 16, poi magari troviamo il tempo di leggerne alcune parti. Il Corriere della Sera invece titola sull'emergenza sbarchi, avete sentito tutti i dati di ieri e i fatti di cronaca, con anche la rivolta in alcune città, soprattutto della Sicilia e della Calabria. I perché di un assedio, nuovi arrivi con navi militari, pensate, tedesche e inglesi. C'è questa rivolta, appunto tale bisogna chiamarla, dei cittadini a Messina e del sindaco anche, che si oppone alla destinazione di un albergo per i profughi minorenni. E poi invece anche un interessantissimo approfondimento di Francesco Drago e Lucrezia Reichlin sulla lotta agli incendi, che prende in esame l'esempio della Finlandia. Ci fermiamo però un attimo per la prima pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, rieccoci sulle prime pagine dei giornali. Abbiamo visto quelle del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera. La Repubblica sceglie di titolare sulle dichiarazioni di Padoan di ieri con questo ottimismo: l'Italia più forte, ora la priorità è il lavoro. Dalla prima pagina anche un'analisi un po' da mani sul volante, direbbe Alessandro Milan, di Roberto Perotti, che sapete è un economista e anche docente alla Bocconi, era stato chiamato dal governo Renzi all'inizio per organizzare e anche attuare la spending review. Se n'è andato a un certo punto dicendo io ammetto di non poter portare avanti il mio lavoro, ammetto che evidentemente non sono riuscito a penetrare nei meccanismi della politica, della politica del compromesso anche, e però se non riesco a portare avanti il mio progetto così come l'ho pensato preferisco andarmene. E così ora torna sulla questione della spending review, i veri risparmi dello Stato, e spiega dove, nonostante tutte le analisi che si possono fare, appunto spending review, che vuol dire rivedere la spesa, poi alla fine i suggerimenti spesso non vengono attuati. Vi segnalo anche dalla prima pagina della Repubblica, poi trovate questa notizia anche su altri giornali, il morbillo, di cui sapete soprattutto, questo è quasi un fatto certo, come molti fatti scientifici, soprattutto a causa della diminuzione delle vaccinazioni, il morbillo si sta diffondendo in Italia più che in qualsiasi altro paese occidentale, e ora ha colpito anche questo sì che può essere un dato casuale, però comunque va registrato ed è in qualche modo significativo, tre dei membri della nazionale di pallanuoto. Tre atleti del Settebello si ammalano di morbillo a poche ore dalla partenza per i mondiali di Budapest. Stiamo affrontando un'emergenza, dice il CT. Ma vi leggo la maca di Serra, che è sugli incendi. Sapete che quest'anno, complice sicuramente anche la siccità e le condizioni appunto di particolare secchezza dei nostri boschi, e non solo, c'è un picco di incendi soprattutto in Sicilia, scrive Michele Serra. Abbiamo la flotta pubblica di Canadair più grande del mondo, ma abbiamo anche la flotta privata di farabutti più grande del mondo, che appiccano il fuoco per qualche loro rurido interesse di cosca o di famiglia. Ovviamente si fa il tifo per i Canadair, con l'aggiunta che almeno in questo caso, e non è l'unico, la vecchia solfa dello Stato che fa schifo davvero non regge. Il fronte del fuoco avanza per mano di privati cittadini. Sapete, lo ricordo per inciso, che praticamente non esiste l'autocombustione, cioè gli incendi iniziano sempre perché qualcuno, molto raramente per caso e molto più frequentemente per volontà, li appicca. Il fronte del fuoco avanza per mano di privati cittadini e lo Stato cerca di fare la sua parte per porre rimedio alla inciviltà di persone alle quali tutto ciò che è pubblico, comprese le foreste, i litorali e i paesaggi, interessa meno di zero. Piccoli calcoli e piccoli lucri guidano la mano di questi italiani di merda, lo scrive Serra, mi scuso per l'eufemismo, aggiunge, che agiscono contro la loro comunità, contro il patrimonio pubblico, contro la salute ambientale, indifferenti a qualunque cosa sia appena più vasta del loro cortile. È un caso questo nel quale i cattivi si annidano in mezzo alla gente e i buoni sono le persone dello Stato, quelli con la divisa, i vigili del fuoco, le forze di polizia, gli uomini della protezione civile. Durissimo venirne a capo, dal fuoco come di tutto il resto, se la gente nel suo complesso non si solleva a livello dello Stato. La prima pagina della Stampa invece parte da un dato che avete sentito anche nei GR, che è quello sulle persone che nel 2017 andranno o non andranno in vacanza. 6 milioni non vanno in vacanza, la crisi cancella un sogno italiano. La fotonotizia però è dedicata a un reportage da Mosca, nostalgia in salsa russa, Stalin torna di moda. C'è infatti un boom di richiami alla figura del dittatore. No, tazze, magliette e vodka, rinasce il culto del dittatore sovietico. Il Messaggero ha la fotonotizia dedicata all'orribile vicenda di cronaca che avete sentito anche nel GR, cioè quella della donna che è rimasta impigliata nelle porte della metropolitana, è stata trascinata e quindi è naturalmente in ospedale gravemente ferita. Alcune foto hanno rivelato che il macchinista non stava mangiando, non si è accorto di niente. In realtà all'interno trovate anche alcuni dati interessanti, per esempio che secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbe stato l'allarme automatico automatico che scatta quando una porta non è chiusa bene, che quindi fa capire a chi è alla guida della metropolitana in quel momento che c'è qualcosa che non va, questo non sarebbe scattato. In ogni caso è indagato questo macchinista, e se per caso è stato anche sospeso, l'ATAC l'ha sospeso, e se per caso risultasse colpevole rischia il licenziamento. Poi l'apertura vera e propria è dedicata agli sbarchi. Sbarchi continui, sindaci in rivolta, e poi c'è questo rapporto degli Stati Uniti lancia un allarme sugli infiltrati, naturalmente infiltrati potenziali terroristi o sobillatori nei vari centri di accoglienza italiani. L'Avvenire ha una foto molto bella di una volontaria che solleva un piccolissimo migrante. Il titolo è Dare credito all'umanità, perché gli ultimi dati ONU dicono che sono i paesi extra UE ad accogliere più profughi. E poi naturalmente il dato sull'Italia. In Italia sbarchi e resistenze anche per disfunzioni oggettive. In prima pagina, e l'Avvenire è l'unico a dare tanto spazio a questa notizia, quello che è successo ieri in Turchia, anche questo l'avete sentito, avete sentito la cronaca nel GR, è passato esattamente un anno dal tentato golpe fallito contro Erdogan, e c'è stata questa grande manifestazione ieri che segue di una settimana quella invece dell'opposizione, che in realtà aveva raccolto ancora più persone. Il Fatto Quotidiano apre su un'intervista che Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ha fatto a Pier Camillo Davigo, che è magistrato ed è stato anche l'ultimo in ordine di tempo, l'ultimo presidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Il titolo è un virgolettato: i politici ci hanno genuflessi, le leggi e il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, premiano i giudici carrieristi. L'intervista poi la trovate alle pagine 2 e 3, sicuramente Pier Camillo D'Amico in questo è molto coerente, torna appunto su queste posizioni sue molto dure, sul ruolo, secondo lui, quasi sempre negativo che i politici hanno nei rapporti e nei rapporti con la magistratura, e soprattutto sul ruolo che vorrebbero avere per condizionare la magistratura. Il Giornale: aiutiamoli a casa loro, i soldi degli italiani regalati ai paesi sbagliati. Qui c'è un'analisi molto interessante sulla questione degli aiuti. Abbiamo citato più volte, io ho citato più volte perché mi aveva molto colpito il libro uscito qualche anno fa di una economista africana che spiegava come sia molto, molto rischioso effettivamente mandare degli aiuti ai paesi africani sostanzialmente per gli altissimi livelli di corruzione delle persone che poi devono gestire questi aiuti. Fotonotizia però è dedicata a alcune dichiarazioni fatte ieri su Twitter da Gad Lerner, che in effetti si prestano poi a queste polemiche. Gad Lerner ha detto su Twitter, che sapete costringe a riassumere il proprio pensiero in 140 caratteri, che è comunque difficile, porta ad alcuni malintesi, ma qui è difficile pensare a un malinteso. Queste le parole di Gad Lerner: lavora di domenica, il riferimento è a Fabio Fazio, ma prende un quarto di Bonucci, che è l'ex calciatore della Juventus, che ora è passato al Milan con un ingaggio multimilionario. Io francamente non vedo assolutamente il parallelo, non fosse che perché Bonucci è pagato con i soldi del Milan, mentre Fabio Fazio è pagato con i soldi del canone, ed è tutto da vedere se, come ha spiegato sul Sole 24 Ore qualche giorno fa il nostro esperto di televisione, è tutto da vedere se, come asserisce il direttore generale della RAI, i soldi che vengono dati a Fabio Fazio ritornano poi in forma di pubblicità. E anche su questo naturalmente si potrebbe discutere, perché da ascoltatrice potrei dire: vorrei un po' meno pubblicità e un po' meno soldi a Fazio, per esempio. Non mi sembra un'equazione così naturale quella. Gli diamo tanti soldi perché tanto poi ci arrivano in pubblicità, ma la pubblicità poi la dobbiamo vedere noi che abbiamo già pagato il canone. In ogni caso, anche un interessante articolo di Magdi Cristiano Allam su quello che lui definisce il femminicidio delle islamiche, e si riferisce a, purtroppo sappiamo che femminicidi nel vero senso della parola, cioè 4 omicidi di donne da parte di loro ex compagni o compagni, ci sono state nelle ultime 48 ore, Quello di cui parla Magdi Christian Allam è un femminicidio, diciamo, più della mente che non del fisico, legato alle infibulazioni, che sono quella mutilazione genitale che condiziona per sempre la vita di una donna e che spesso avviene quando queste donne non sono ancora donne, sono solo bambine. Ed è una pratica tipica della religione musulmana e particolarmente diffusa in Africa. La prima pagina del manifesto dedicata all'immigrazione è state umani, naturalmente un gioco di parole, 7.000 profughi in fuga da fame e guerra arrivate in una giornata sola nel sud, tensioni a Civitavecchia, non c'è più posto, questo effettivamente è il virgolettato del sindaco ieri, ma di un sindaco di una città del sud, tra l'altro soltanto a Corigliano Calabro sono arrivati 203 minori non accompagnati e naturalmente qui c'è la cronaca che si mischia poi a tutte le interpretazioni e i commenti, però immaginiamo davvero, anche chi di noi pensa che dovrebbero essere accolti tutti, io sono tra questa, e soprattutto salvati tutti, immaginiamo però che cosa significa da qui a probabilmente la fine dell'estate accogliere 10.000 persone al giorno. Anche il manifesto, devo dire, dà molto spazio in prima pagina a quello che è successo in Turchia. Il titolo, addirittura sopra la foto di prima pagina, è Erdogan si autocelebra in piazza. Ancora il titolo di Libero, prima di fermarci un attimo per la pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, l'Italia non vale una cicca, è un articolo di Antonio Socci, molto lungo, che poi trovate a pagina 3, che parla dell'evoluzione in sede europea delle proposte del nostro ministro degli interni Minniti per cambiare le regole sull'azione delle navi delle ONG. Poi naturalmente tutti i fatti di cronaca, ancora sbarchi da scafi che battono bandiere dell'Unione, scoppia la rivolta degli italiani. Poi un curioso articolo di Melania Rizzoli, che sapete è medico ma è anche collaboratrice di Libero, dedicato ai tatuaggi. Non lo sapevo, ma in Italia abbiamo un record dei tatuaggi e abbiamo anche un altro record, cioè la maggior parte dei primi tatuaggi viene fatto tra i 35 e i 45 anni, mentre in molti altri paesi tra i 18 e i 25 anni. Ci lasciamo, come dicevo, un attimo per una pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Ci mancava la prima pagina della Verità, che titola su un'intervista di Giancarlo Perna al documentarista Alberto Cicala, che è residente in Nigeria. Dice: ho fatto la spola con l'Italia almeno 50 volte e di una cosa è sicuro, abito in Nigeria, vi dico, non date soldi all'Africa. È un po' appunto quello che dicevamo anche prima, ma soprattutto vi segnalo l'intervista, che poi trovate a pagina 8 e 9 della Verità, al ex vice direttore generale della Banca Popolare di Vicenza, che sapete è una delle due banche il cui salvataggio costerà a noi contribuenti molti, molti, molti miliardi, mentre la parte buona delle due banche, la cosiddetta Good Bank, andrà a Banca Intesa per un valore, a questo punto si pensa appunto simbolico, di un euro. Poi vedremo sulla questione anche degli esuberi, perché anche quelli che non potranno essere in qualche modo compensati da Banca Intesa con assunzioni o altre forme di ammortizzatori sociali, quasi certamente poi dovranno essere compensati in un altro modo, quindi di nuovo a carico dei contribuenti. In ogni caso, parla questo banchiere, Adriano Cauduro, ora è in Sicilia, è stato esiliato prima in Sicilia nella Banca Nuova, controllata appunto della Banca Popolare di Vicenza, e poi è stato licenziato. Su Zonin, ex presidente della banca, dice: è lui che ha distrutto la banca. Sapete che Zonin è indagato, però in questo momento risulta nulla tenente, perché ha intestato tutto a moglie e figli, quindi anche gli si dovessero comminare delle multe non potrebbe pagarle. Vedremo come andrà avanti la vicenda. Mi sono dimenticata, insieme alla Repubblica, di segnalarvi l'uscita dell'Espresso, come ogni domenica ormai da quando è direttore Tommaso Cerno, da circa un anno, quindi esce abbinato alla Repubblica. La copertina è dedicata a quello che viene definito una nuova forma di dominazione da parte degli uomini sulle donne. Tremate, tremate, i maschi sono tornati. Discriminazione, autoritarismo, violenza. Abbiamo parlato dei quattro femminicidi negli ultimi giorni, non sono il passato, anzi dominano di nuovo il presente, rapporto sulla sottomissione di genere, con all'interno molti articoli. Ma veniamo, a proposito di interno, alle pagine interne del giornale, quindi torniamo sul Sole 24 Ore. Luca Veronese racconta con in profondità quello che sta succedendo in Polonia, che è un paese per tanti anni preda dell'impostazione economica dell'ex blocco sovietico, che poi con il crollo del muro di Berlino dell'Unione Sovietica è entrato in una nuova fase di sviluppo economico, ha avuto anche dei momenti di crisi, ma ora ci racconta Luca Veronese, è boom, la Polonia del boom cerca lavoratori, con la disoccupazione a livelli tedeschi, cioè bassissimi, 4,8%, scarseggia la manodopera qualificata, quindi non c'è più il famoso idraulico polacco che terrorizzava soprattutto il Regno Unito, perché sapete che molte anche delle discussioni che hanno portato in qualche modo al referendum sulla Brexit e forse anche all'esito di quel referendum è stato che con l'entrata della Polonia nell'Unione Europea c'era la libera circolazione dei lavoratori, che quindi per esempio i polacchi venivano accusati insieme ad altri lavoratori di altri paesi dell'Unione Europea di rubare alcuni tipi di lavoro, come appunto gli idraulici, agli inglesi. Trovate tutto questo a pagina 5 del Sole 24 Ore di oggi. E poi invece un altrettanto lungo e documentato approfondimento di Giovanna Mancini sul business bio, che vuol dire alimentare ma anche cosmesi, farmaceutica, un mercato che possiamo definire salutista, che è cresciuto del 7% e ha conquistato la grande distribuzione, come credo tutti noi quando andiamo nei supermercati abbiamo notato, c'è sempre più spazio appunto per gli alimenti bio, per i cosmetici bio, per i detersivi bio e anche per tutta quella gamma di alimenti che vengono chiamati nutraceutici, e a questo termine nutraceutica è anche dedicata la parola chiave dell'articolo di Giovanna Mancini, che appunto spiega come sia la fusione dei termini nutrizioni e farmaceutica. Vi segnalo poi a pagina 12 del Sole 24 Ore, come ogni domenica, l'approfondimento sport e business. Questa settimana è dedicato alla scherma. Tra le medaglie e lame, la scherma italiana insegue altri primati. Sono in crescita il numero di atleti, ma anche la produzione delle armi, naturalmente, che non servono per ferire né uccidere, che devono usare gli schermitori nelle varie divisioni di queste discipline. Lo spunto per fare questo approfondimento sulla scherma è che dal 19 al 26 luglio ci saranno i mondiali nella città tedesca di Lipsia. Come vi dicevo, l'incontro con Paolo Maranghi di Paolo Bricco e Edoardo De Biasi lo trovate a pagina 16. Ci sono la parte che a me è piaciuta di più, affascinato di più, sono i racconti privati di Piero Maranghi, del padre. A un certo punto dice, per esempio, mio padre, nonostante il lavoro duro, che lo ricordo ancora una volta, il padre di Piero Maranghi è stato il successore di Enrico Cuccia in Mediobanca. Mio padre, nonostante il lavoro duro e metodico, è stato tutt'altro che un padre assente o anaffettivo. Non mi infastidisce per nulla che la sua immagine pubblica fosse e sia ancora improntata all'austerità, perché quella si riferiva al ruolo e all'istituzione. Aveva un'attenzione speciale e nascosta alla dimensione privata delle persone. Quando ci parlava di qualcuno, lo definiva sempre con un riferimento personale. E poi spiega anche che avere un padre così speciale, perché questo sicuramente è stato una delle figure dei banchieri più importanti, insieme al suo mentore Cuccia, lo ha poi anche condizionato quando si confrontava poi con altri uomini, perché scrive: lo amavo molto e mi piaceva altrettanto. Ogni tanto ci penso, la mia crescente somiglianza, che in tanti notano, mi sembra quasi un'emulazione, insieme inconscia e fisiologica. Vi dicevo invece la 14ª puntata del Viaggio nell'Europa. Le puntate sono 16 in tutto, quindi ne mancano ancora due. Questa settimana Carlo Ossola è in Portogallo, a Belém, dalla città dalla quale partì Vasco da Gama, primo europeo a doppiare il Capo di Buona Speranza. dalle pagine interne del Corriere della Sera. Vi segnalo come un approfondimento sulla notizia che trovate in prima pagina su molti giornali, che è quella dell'epidemia di morbillo all'interno della nazionale di pallanuoto. Trovate tutto a pagina 14 con anche una scheda. In questo caso l'approfondimento è sul vaccino trivalente, che è quel vaccino combinato che protegge contro morbillo, rosolia e parotite. E questo è veramente l'articolo da Mani sul Volante di oggi, come direbbe Alessandro. Lo trovate a pagina 17, firmato da Gian Antonio Stella. Si intitola "I trucchi per triplicare la pensione dei sindacalisti, da 39.000 a 114.000 euro. Interviene la Corte dei Conti, ma lo stop vale solo per il futuro." Poi vi segnalo sempre dalle pagine interne del Corriere della Sera un articolo di Corrado Staiano, un grandissimo giornalista e scrittore, che recensisce in un certo senso un piccolo libro appena uscito, pubblicato dall'editore Edizioni di Storia e Letteratura, che raccoglie due scritti di Piero Calamandrei con un'introduzione del politologo Gianfranco Pasquino, che torna sul tema del ruolo del Parlamento. Sapete che spesso si dice che viene svilito, per esempio, con il ricorso alla fiducia, che esautora, per così dire, i parlamentari dall'esprimere o dal rendere decisivo il loro voto, perché viene dato questo out, perché appunto viene messa la fiducia del governo a un certo provvedimento, ma anche con il ricorso ai decreti legge, tutta la decretazione d'urgenza. E quindi Corrado Staiano, recensendo questo piccolo libro, scrive "Il monito profetico di Calamandrei". Per chi è interessato a tutto quello che sta succedendo nel PD, naturalmente su Repubblica le cronache più lunghe con interviste. Questa domenica abbiamo un'intervista a Gianni Cuperlo, un inedito veramente, intitolata "Resto solo se chi guida smette di usare la clava". Poi un'intervista a Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture: "Chi ci giudica di destra impedisce un vero dialogo, basta con i veti su Renzi". E poi una cronaca di quello che ha detto ieri Bersani, che dice "continuerà l'esodo se non cambia il metodo Renzi", eccetera eccetera eccetera. Insomma, nessuna tregua in vista all'interno del centro-sinistra del PD. Vi segnalo, perché questo si lega anche alla vicenda all'Italia, sapete, l'eterna crisi della nostra ex compagnia di bandiera, che ancora non si sa bene come verrà salvata. E si collega a questo perché a pagina 22 della Repubblica trovate i dati sul traffico fino ad ora nel 2017 negli aeroporti. Viene definito il 2017 un anno d'oro, perché nei primi 5 mesi i passeggeri sono cresciuti del 6,4%. Allora, se a fronte di questo abbiamo appunto una compagnia, tra l'altro parliamo degli aeroporti italiani, e pensate che soltanto a Fiumicino ci sono stati nei primi 5 mesi del 2017 oltre 15 milioni di passeggeri, e poi segue Malpensa, Bergamo, Linate, tutti gli aeroporti italiani, e la nostra compagnia di bandiera è nella situazione in cui è. Quindi evidentemente qui davvero non si può invocare una crisi attuale del mercato, ma sostanzialmente una mala gestione. Ci fermiamo però un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Vi segnalo ancora qualcosa dalle pagine interne, poi passiamo ai supplementi domenicali. La rubrica, l'intervista domenicale di Alain Elkann sulla Stampa, pagina 27, questa settimana ve la segnalo perché è un'intervista a Roger Cohen, che è un reporter del New York Times, che spiega: il giornalismo è vitale come ai tempi del Watergate. Il Watergate naturalmente è lo scandalo che prende nome dall'hotel che si chiamava Watergate, che poi fu alle origini dell'impeachment del presidente Richard Nixon, perché era uno scandalo in cui i repubblicani furono sorpresi a spiare illegalmente i rivali democratici, che avevano la sede appunto in questo hotel Watergate. Perché in quel caso, come sapete, come è stato celebrato anche da un film, il ruolo della stampa e del Washington Post in particolare fu fondamentale. Secondo Roger Cohen, nonostante tutto quello che si dica della crisi del giornalismo, soprattutto il giornalismo della carta stampata, in una situazione in particolare come quella politica americana, con tanta mancanza di trasparenza, il giornalismo torna a essere molto importante. Vi segnalo dal Messaggero una pagina intera di Claudia Guasco, molto interessante, sulla questione della legge anti-anoressia. Si sta studiando questa legge per combattere i disturbi alimentari. Nessuno sa in realtà davvero come, nessuno ha una ricetta per combatterli o per risolverli, però c'è un fatto che ogni anno si ammala una ragazza su 10 soprattutto di anoressia, e che potrebbero effettivamente esserci dei palliativi di cui si può occupare la politica. E quindi, per esempio, reato istigare alla magrezza, ingaggiando ad esempio modelle troppo magre per le sfilate o i servizi di moda. Perché? Perché c'è il rischio di emulazione, naturalmente. Poi le cause dell'anoressia e di tanti altri disturbi alimentari non sono solo quello, però magari su quello dove si può fare qualcosa è giusto che il Parlamento cominci a interrogarsi. Ma passiamo ai supplementi della domenica, e come sempre iniziamo dalla Domenica del Sole 24 Ore con il breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Piangere, e la citazione è questa: chi piange non muore, il pianto è sintomo di vita, piangi e la tua vita varrà ancora qualcosa. Il romanzo, intitolato La base atomica, è un po' strano, talora stravagante, anche se si intuisce la mano di uno scrittore forte. Infatti è il maestro della letteratura islandese Halldór Laxness, morto nel 1998. Queste sue righe mi hanno impressionato perché affermano una verità a cui non badiamo. Solo le statue non piangono, lasciamo stare per ora i prodigi mariani, così come hanno il ciglio asciutto i tiranni, i criminali spietati, i mostri. Piange invece chi ha un cuore che palpita, chi ama, come non citare il sonetto dantesco «Piangete amanti, poiché piange amore», piange chi soffre, ma si può piangere anche di gioia. Non vergogniamoci allora se le lacrime velano i nostri occhi, sono un segno di vita e di umanità. Gesù sul monte di Galileo aveva promesso: «Beati quelli che piangono, perché saranno consolati». La copertina, il pezzo di copertina della domenica però è dedicato a un articolo di Angelo Tartuferi dedicato a uno dei grandissimi poeti pittori italiani, che è Giotto. Dove è nato davvero Giotto? Il Mugello si prepara a celebrare i 750 anni dalla nascita del pittore, e giottisti di mestiere, cioè esperti di Giotto, si riuniranno per definire quel che si sa sull'artista, ma anche quello che non si sa. Vi segnalo, sempre dalle pagine interne del Sole 24 Ore, un interessantissimo articolo di Guido Guerzoni sulla cultura dei post-millennials, cioè se per millennial intendiamo i nati dopo il 2000, c'è anche una generazione successiva, e quindi un'indagine su gusti e costumi degli under 15. Rivela un universo immenso, ancora tutto da esplorare. La lettura del Corriere della Sera affida, come sempre, la copertina a un artista. Questa settimana è Valery Kosliakov. Dall'interno vi segnalo un articolo di Marco Del Corona, che prende spunto da un libro pubblicato negli Stati Uniti dalla Princeton University Press, che si chiama Face Value. È un gioco di parole, perché face value vuol dire anche letteralmente valore della faccia, valore della facciata, ma anche quello che il valore che sta scritto su qualche cosa, quindi anche per esempio il prezzo, ma in realtà qui si va molto oltre, è una sorta di nuova fisionomica: dimmi come mi guardi, ti dirò chi sei e che cosa pensi. E poi, visto che abbiamo parlato di Sicilia per gli incendi di quest'anno, due articoli, uno di Pietrangelo Buttafuoco e uno di Roberto Alaimo, quindi due scrittori. Da una parte Pietrangelo Buttafuoco, che dice: il Gattopardo ha ragione, sapete la famosa stracitata frase di Tomasi di Lampedusa, che ha messo pronunciata dal protagonista del Gattopardo, che diceva: tutto cambia perché nulla cambi, sostanzialmente. E invece Pietrangelo Buttafuoco dice: tutto è diverso, ma nulla cambia. Mentre Roberto Alaimo, più ottimista: il Gattopardo ha torto, un'altra Sicilia è possibile. Robinson della Repubblica invece è alla dedica, la e qui naturalmente mi ha molto colpita favorevolmente, dedica la copertina alla divulgazione scientifica. Narrate, scienziati, la vostra storia. C'è questo diciamo, non rinascimento, ma finalmente crescita in Italia, nel senso che viene fatta da scienziati italiani, ma vengono anche tradotti più libri di scienziati stranieri e soprattutto vengono venduti e letti. La Gaia Scienza, dalla fisica quantistica alla matematica, dalla genetica ai buchi neri, sono sempre di più i libri dedicati a questi temi che raggiungono le vette delle classifiche. Sono gli stessi scienziati a scriverli, hanno imparato a parlare delle loro materie in forma narrativa. E così siamo entrati in quella che Bruno Arpaia in questo lungo articolo definisce l'era della post-accademia. Non so che bisogno ci sia di dare una definizione, comunque è un dato di fatto appunto che questi libri di divulgazione scientifica ben fatta hanno sempre più successo, e credo che sia una cosa positiva per un paese dove comunque la cultura purtroppo scientifica non è diffusa come in altri paesi. Non posso non segnalarvi invece una bellissima anticipazione del libro di Massimo Cirri intitolato Sette tesi sulla magia della radio, appena pubblicato da Giunti, tra l'altro illustrato da un'altrettanto bel disegno di Francesca Germandi, che forse molti ascoltatori conoscono, oltre a a lavorare spesso per Repubblica e per Internazionale, sono suoi per esempio i disegni dell'oroscopo di Rob Bresny, appunto una bravissima illustratrice italiana, e qui ha disegnato una radio da cui esce un pugno, come dire, un pugno di forza. Radio quanto sei social è il titolo della lunga anticipazione di questo libro, dove si parla della storia della radio ma anche del suo presente e del suo futuro. Nel 1933 Bertolt Brecht parlava di mezzo straordinario per mettere le persone in relazione l'una con l'altra, e infatti è diventata lo strumento che prima di ogni altro ha inventato l'interattività con il pubblico, in questo senso quindi quanto sei social. Alla fine degli anni 60 fu la RAI con Chiamate Roma 3131, poi Microfoni aperti diventarono un format diffuso in ogni angolo dell'etere, fino a Pannella che con Radio Parolaccia senza censura anticipò di 25 anni quello che accade oggi su Facebook e Twitter. Poi invece Macro, la copertina del supplemento giornaliero, in realtà del Messaggero, è dedicato a una nuova traduzione di uno dei libri più famosi di Albert Camus, La peste. Lo scrittore francese, premio Nobel nel 1957, che morì a soli 47 anni nel 1960 in un incidente stradale, appunto ripubblicata in una nuova traduzione di Bompiani, quello che viene definito dal Messaggero il capolavoro dello scrittore francese. Così l'orrore cancella le ideologie, questo è il titolo della lunga recensione. Vi segnalo a proposito di traduzioni, molto interessante questo articolo che trovate sulla Alias del Manifesto, dedicato a uno dei libri più famosi di uno scrittore, secondo me poco conosciuto tutto sommato, che è Cortazar, perché viene veramente un grandissimo autore latinoamericano. Viene ora ripubblicato il libro Il Persecutore dalle Einaudi, con una traduzione rivista da Jaime Riera Reren, perché chi conosce un po' Cortazar sa che sicuramente il linguaggio è una parte importantissima del suo immaginario, e quando bisogna tradurre è sempre un problema. E quindi questa nuova traduzione rende un po' giustizia, diciamo, a questo libro, che forse nella traduzione era stato un po', diciamo così, tradito. Torniamo un attimo sulle pagine interne del giornale, per un articolo che magari qualcuno così mi prenderà in giro. Non è proprio un articolo culturale, però secondo me invece forse sì, è di Oscar Grazioli dal Giornale, che sapete è la persona che sul Giornale si occupa soprattutto di animali, che ci racconta la storia del gatto. Addomesticato 10.000 anni prima di Cristo dall'Oriente con amore, la vita avventurosa del nostro gatto di casa. È nato in Mesopotamia, si è moltiplicato in Egitto e ha conquistato il mondo con i romani. Quindi così, visto che in estate ricordiamoci dei nostri animali, portiamoli con noi se è possibile, se andiamo in vacanza, o se no, se restiamo magari in città o non andiamo in vacanza, occupiamocene un pochino di più. E Oscar Grazioli ci racconta anche quanto siano antiche, anche quanto sia antica la domesticazione di questo animale, il gatto. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Peter Bescapè in regia e ancora una buona domenica a tutti voi.